24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Poco fa il senatore De Siano è venuto qui e ha commesso il reato di ingiuria. Mi ha ingiuriato davanti a tutti con "sei uno stronzo". Per favore, prego lei, Presidente, di fare tutto il possibile per evitare che si commettano reati di qualunque genere, almeno in quest'Aula. Grazie. E poi dicono che al Senato non si lavora, che al Senato non succede nulla. Avete sentito l'accusa dell'ex senatore del Movimento 5 Stelle Mastrangeli nei confronti del collega De Siano? L'ho preso dal sito di Libero. E che dire, gli ha detto così, questa denuncia clamorosa: mi ha ingiuriato, almeno in quest'Aula non si commettano questi reati. Va bene, questo è 24 mattino, buongiorno, si conclude la decima settimana decisiva per la riforma elettorale, la decima settimana decisiva per l'abolizione. Sì, sì, non ce la contrappi da tre, Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Decima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Voglio salutare subito Vincino. Buongiorno, eccoci. Vincino. Passiamo subito buongiorno. Agli insulti, c'è chi insulta il senatore Mastrangeli, c'è chi insulta me, c'è chi insulta... Ma noi abbiamo un presidente del Senato magistrato che quindi tutto risolverà. Tutto risolve, sì, è vero, però presiedeva Calderoli in quel momento. Ai, Calderoli è un disastro sotto questo punto di vista. Calderoli, allora che cosa può fare? Si alza la maglietta e via. Certo, Calderoli ha detto bravo, bravo, le potevi dire di più, potevi anche andarci giù più pesante. Voglio salutare anche Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, grazie. Massimo, vi ho preso il sito, cosa l'avete messo anche buongiorno. Voi sul sito internet, ve l'ho fregato e ve l'ho mandato in onda, vabbè. Ma è fregato, giusto così. Diritto di cronaca. Anche quello del senatore De Siano nei confronti, il diritto di opinione nei confronti di Mastrangeli. Ma se ne dicono di tutti i colori, a dire la verità, cioè, poi tra le altre cose sembra strano che proprio quelli dei 5 Stelle si lamentino, ieri l'altro giorno stavano per venire alle mani addirittura. Cioè, lui è ex, però non dirgli che del Movimento 5 Stelle, quelli del Movimento 5 Stelle si arrabbiano, ex. Bisogna difendere ex, gli esuli, i profughi, noi, assolutamente. Allora no, lo prendiamo e lo mandiamo in Kazakistan, non si fa così. Facciamo una rendition kazaka, ecco. Vabbè, dai, apriamo il nostro Parlamento che in realtà chiude, essendo venerdì, chiude il Parlamento e noi c'è Nicole Minetti sempre. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, allora la notizia è questa, Vincino, la Minetti usciva con il figlio del presidente del collegio che giudicherà Berlusconi il 30 luglio, e come la mettiamo questa cosa? Come Vendola che andava a pranzo con la giudice che la voleva giudicare. No, guarda che querela, Vendola. Questa è la verità, l'ho letto sul Libero. Sì, ecco, vabbè, infatti Vendola ha querelato per questo. Quindi. C'era la foto, non può querelare. C'era la foto. C'era la foto, vedi, assolutamente. C'era una foto, non è che andava a pranzo, era una... ma perché mi devi mettere su un'occasione conviviale? C'era una foto. Allora, ma no, la questione è più delicata però, è come la mia... Ma i poveri figli, scusa, i figli di magistrati niente loro? No, infatti... Tutta la vita a secco? De Manzoni, che succederà? Potrebbe essere una... Cioè, le colpe dei figli non ricadono sui padri, non succede niente. Bel intreccio! È stupendo! Si può fare un bel intreccio, si può condire su una bella storia, insomma, si può fare qualche retroscena, qualche complotto, no? L'Italia è un paese piccolo, si conoscono tutti, non è possibile avere delle persone che non conoscono, i 6 gradi di separazione in Italia sono 2 o 3. Come il vice direttore della Camera, no? Sì. Il vice segretario, questo l'ho scoperto da Libero oggi, il vice segretario generale della Camera, sapete chi è, come si chiama? Guido Letta. Cugino del Premier. che è nipote dell'ex vice premier Gianni Letta, bella zio. Ma com'è possibile, De Manzoni? Ma questa ce l'avete, l'avete tirata fuori oggi? Fate tutto un servizio sui super stipendi della Camera, i super stipendi dei dipendenti. Il primo di una serie, perché una non ci serie. Sono solo gli stipendi, ci sono anche altri privilegi, alcuni dei quali faranno veramente incazzare gli ascoltatori, per esempio, e i lettori, per esempio, che loro vanno in ferie prima, lo racconteremo domani, loro vanno in ferie in pensione. Prima degli altri, perché hanno un meccanismo di ferie, sì, per i quali praticamente vanno in ferie senza andare in ferie. È una cosa un po' complicata, sì, ma non c'è stato più. No, in realtà l'effetto è semplicissimo: vanno in pensione prima degli altri. Questo esattamente, vanno in pensione qualche anno prima degli altri, senza riforma Fornero, non riforma Fornero, per quelli della Camera non vale. Il Bengodi di Montecitorio, sai Vincino che cos'hanno anche come indennità i dipendenti, sì, della Camera? L'indennità, dov'è che l'ho trovata? La prima, come cavolo, sì, dov'è libero? Quella che mettono i dati al computer, sì, vengono, sì, pagati, sì, sì. Esatto, un'indennità nello stipendio per inserire dei dati nel PC, l'indennità di inserimento. Questo, no? È il sogno di tutti i giornalisti e redattori. Ma porca miseria, ma com'è possibile evitare una rivolta popolare? Qui la gente, nel senso, si mette davanti a molti. C'è Grillo che ci difende, che lui ha bloccato la rivolta. Non è che l'indennità, lui, sì, l'indennità, cioè, computer. Prima c'erano i 300.000 bergamaschi di Bossi, no, sì, e oggi ci sono i milioni di italiani arrabbiati di Grillo, no? Lui li ferma, perché sennò c'è Gaia, 30 milioni di morti e via, no? Quello che succede succede. Sì, De Manzoni, ma insomma, l'indennità, ma come, ecco, no, questa faccio una domanda seria: come è possibile che nell'Italia, dove tutti fanno i sacrifici, dove ci sono gli esodati, dove esistano ancora queste sacche di privilegio, nonostante le denunce della stampa, nonostante si dica da parte delle istituzioni no, cambieremo, faremo, ma com'è possibile? Perché in Italia non si riesce a scalfire neanche minimamente una cosa del genere? Perché l'Italia non è in mano ai politici, è in mano ai burocrati. Questo la gente non lo sa, ma è così. Ogni volta che si annuncia una legge, una riforma, un qualcosa, e poi non si fa, ma non si fa perché semplicemente gli uffici dei vari ministeri bloccano tutto, e così succede normalmente anche per le varie spending review che vengono annunciate, figurarsi nei loro confronti. Poi alla fine chi deve tagliarsi lo stipendio sono loro, nel senso, certo, che è sempre una questione interna. Si trova sempre un modo. I burocrati. Tu, Vincino, che faresti per tagliare qua questi? Io farei un contratto di quelli normali della. Sì. I contratti quelli nazionali del tipo, sì, di privati, no, ma lo sai anche perché è presente quando tu vedi la seduta della Camera e, sì, vedi che c'è il presidente, quello che, e poi c'è accanto uno che gli parla all'orecchio, no? È vero. Che gli parla all'orecchio è il vice segretario, è Guido Letta, è Francesco Andreotti, è Giuliano, sono tutti là, no? E loro, come dire, per fare andare avanti le cose, e si infilano tante cose loro. No, gli viene facile proprio dritto. Perché Vincino, sapete che segue tutte le udienze. Ma l'hai presente? L'hai mai visto Guido Letta, vice segretario? Cioè, hai presente fisicamente? Ho capito ora chi è quello più giovane che parla all'orecchio, assolutamente. No. Quello che assomiglia, no, perché... quello che assomiglia a Letta, insomma. Sì, perché poi loro, chi presiede la Camera, non sa fare niente, c'è sempre un accanto che dice, questo chiama quello, fai quest'altro, e loro fanno. Sì, c'è vero, c'è a fianco quello che gli suggerisce la procedura, no, guardi, dia la parola, questa va bene. Esattamente. vabbè, sarà anche che l'Italia ha dei problemi, a meno così ha certificato la CNN, no, avete sentito cosa ha detto la CNN? Sapete cosa ha detto la CNN? No. Come no? Ma allora, la CNN non è mancata. De Manzoni, che è informato, dice sì. Ha detto che siamo Standard & Poor's e le altre agenzie di rating. Hanno fatto bene. Sempre in sciopero. Hanno fatto bene, bene. Ho capito, però ha detto qualcosa di più, Massimo, ha detto Erin Barnett, adesso tra poco ve lo faccio sentire in originale, ha detto: siamo una nazione sempre in sciopero e quindi Standard & Poor's è giusto, soprattutto perché è così, perché l'uomo che per anni ha guidato l'Italia era impegnato ai parties col bunga bunga perché le sue prostitute non scioperavano, questo erano le uniche che non scioperavano, sentitelo in originale se masticate un po' l'inglese nella seconda parte, Harry Barnett, CNN, sentite bunga bunga a un certo punto. Part of the consequences. Economic output in Italy is down 10% from where it was about 5 years ago. And there are a lot of reasons for this beyond strikes, like, you know, hey, the man running Italy for much of the past decade was maybe too busy at bunga bunga parties to notice the strike problem or deal with it, because after all, those prostitutes didn't seem to ever go on strike. Bunga bunga. Bunga bunga, stupendo. Perché le sue prostitute erano le uniche che non scioperavano. Oh, la CNN! Vicino, sì, italiano, come si permettono questi? No, vabbè, va benissimo. No, è un po' sopra. Sì, no, come dire, io sento sempre la CNN assolutamente in lingua, in coso. Questo me l'ero perso perché ogni tanto mi distraggo, mi alzo. C'è Guidoletta che ti ha suggerito di alzarti. E anche Fox News le sento pure. Fox News. Ho capito, ma De Manzoni, che dobbiamo dire? Facciamo subito ritiriamo l'ambasciatore a Washington, da Washington, no? Ma noi siamo molto popolari per questo nel mondo. Cioè, come dire, siamo simpatici. Dai, libero, fate qualcosa. Un po' un cliché, in effetti, perché cioè, non è che ultimamente ci sono tutti questi scioperi che c'erano una volta. Non c'è uno sciopero da anni in Italia, uno sciopero serio da anni. La crisi morde. Dopodiché che abbiamo le nostre colpe e che qualche volta ci attiriamo, cioè ce le meritiamo anche, è vero. Nel caso specifico veramente era una battuta gratuita, perché ripeto, con la crisi di scioperi non è che se ne vedono tantissimi, quando cominciano a scioperare normalmente sono aziende che sono già chiuse. Sì, effettivamente era un po' la battuta gratuita. La FIOM fa sciopero il sabato pomeriggio, cioè come dire, quando è tutto fermo fa lo sciopero, bravi. Vabbè, allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è la segreteria, attenzione, è tornato il contadino della zappa da 7 kg nella segreteria. Poi io devo dire una cosa, avremo oggi ospite, approfitto della presenza di Massimo De Manzoni per chiedere una domanda de relato, perché te lo dico Massimo, noi avremo ospite qui alle 8:30 in diretta al ministro all'integrazione Cecil Kyenge. Allora, siccome vuoi di libero, dopo se pensa una domanda che vuoi fare a Cecil Kyenge, io poi gliela faccio alle 8:30 dopo. 24 mattino. Mettetela di parlare di Grillo. Non è Grillo che fomenta le piazze, sono i politici italiani che affamano e fomentano le piazze. Sta gente non ha capito che se queste cose non cambiano, finisce a sberle, ma veramente a sberle. Milan, ci danno la caramella, chiedono online il parere di noi, popolo bue, per risolvere i problemi di questo povero paese. Gente, sommergiamoli di insulti. Il mio è questo, brutti maiali. Ciao Alessandro, sono il capo dei rivoluzionari italiani. Adesso prenderemo i forconi, i bastoni e le zappe. Siamo appena usciti dalla riunione, poi abbiamo deciso però di rimandare tutto a settembre. Facciamo come il governo. Italiani, ma dove volete andare a fare la rivoluzione? State a casa, dai, state a casa! Ma pensavo, ma sti saggi, perché non fanno come Archimede Pitagorico, si mettono un bel cappello pensatore in testa, no? Chi un tacchino, chi un piccione, chi un quagliarello, e pensa che ti ripensa, magari qualcosa ci tirano fuori, ma chi lo sa? Caro Alessandro Milan, io sono il contadino della zappa, ti ricordi di me? Dunque tu devi sapere che nel paese mio ci sta una chiesa antica, dove ci sta il quadro di Santo Giuda, il patrone delle cause perse. Insomma, dice che ogni tanto questo quadro parla. Allora sono nato su, anch'io sulla chiesa, ho aspettato che fossero scappati via tutti quanti, e poi ho chiesto: Santo Giuda, aiutici tu, che tu fai i miracoli. E sai che è successo? sentito una voce che mi ha detto: figlio mio, gli sordi per i miracoli per l'Italia sono finiti, è finito il budget, non ve potemo più aiutare. E allora noi che dovevamo fare? Arrangiatevi un po' da soli, però state attenti, perché l'ultima volta che avete fatto da soli è scappato fuori Mussolini. Aiaiai, la saggezza contadina, Vincino. Stupendo, guarda, Santo Giuda è stupendo. Delle cause belle. Oh, i saggi, quello i saggi, si possono mettere un quagliarello in testa. Abbiamo perso un saggio. Se n'è andata la se n'è andata Lorenza Carlassare, abbiamo perso un saggio. Cioè, nel senso, se n'è andata. Tragedia. Si è dimessa, è una tragedia. Era quella che era un po' indecisa dall'inizio, sì, non... perché gli altri invece continuano felici. Gli altri pensano, rimaniamo Donofrio, ci vuole adesso, sì. Donofrio, loro pensano, sentite che fanno. Che cosa fanno queste persone? Pensiamo, il pensiero è un'attività libera, pensiamo, è legittimo pensare o no. E siccome non siamo retribuiti, possiamo pensare gratuitamente o no. Pensiero D'Onofrio. Il pensiero unico di D'Onofrio. Tra l'altro, no, la cosa più straordinaria è successa quel giorno fuori onda, perché a un certo punto, dopo di noi pensiamo, poi a un certo punto D'Onofrio mi mise giù durante il traffico, al che Alessandro Longoni lo chiamò, dice, dalla redazione, dice: scusi professor D'Onofrio, no, pensavo fosse finita la trasmissione. ma lei D'Onofrio pensa sempre, e quindi questo è il problema De Manzoni. Pensano i saggi. Pensano e non scrivono, ci hanno anche raccontato, no? No, cioè, sì, c'è chi scrive per loro, nel senso, pare. Sì. Ne hanno assunti 7-8 per scrivere. Comunque, io vi voglio far ascoltare questa di Enrico Letta, adesso con i nomi tra Gianni, Guido, sì. Adesso bisogna... Allora, Enrico Letta ieri ha detto, ha tuonato contro i vocianti dei TG, no? L'effimero delle dichiarazioni dei politici, e poi ha usato questa metafora, gli ricorda queste dichiarazioni effimere, le ricordano, a Letta ricordano una cosa, sentiamo. Mi riviene in mente quella sua straordinaria immagine delle cattedrali medievali in cui gli scalpellini medievali facevano a gara a fare meglio, con più attenzione, con più precisione, proprio le guglie più alte rivolte all'indietro rispetto alla piazza dove tutti vedevano, quelle guglie che soltanto i piccioni e ovviamente Dio potevano vedere. Io quando ho sentito i piccioni ho detto: qui sta attaccando Letta, sta attaccando Renzi, è evidente. No, ce l'ha con Renzi De Manzoni, perché no, per carità, è Bersani che ha contagiato tutti, tra tacchini, piccioni. Bisogna aggiornare delle metafore elaboratissime. Sì. Tacchini, piccioni, caimani, cosa c'è, Vincino? Caimani, pitonesse. Poi c'è un partito di pitoni, sono un 10.000 pitoni, pitoncini, e quello là in centro, poveretto, tutto circondato da tutti questi pitoni. A proposito di pitoni e pitonesse, ma io non ci volevo credere, oggi ho letto sul Corriere della Sera, quindi Vincino, se lo scrive il Corriere della Sera, Daniela Santanchè ha proposto 2 giorni fa a Berlusconi questo: blocchiamo l'Italia a cominciare dalle autostrade. Ma che siamo matti? Ma tu te lo vedi la pitonessa a bloccare la 4, la Milano-Venezia? Fermi! Per la libertà! Per la libertà! Non guardano la televisione, fanno niente. No, ma vi rendete conto? È un tracollo questa cosa qua. Ma De Manzoni, ma di qualcosa a te, dai! Com'è possibile? Ma te la vedi la Santanchè? Fermi tutti! È una manifestazione per la libertà, blocchiamo la Salerno Reggio Calabria, ma dai, ma... No, anche perché quando lo facevano i dipendenti gli operai dell'Alfa, ci incazzavamo anche parecchio. Volevo vedere Libero poi quando il PDL bloccava le strade, le autostrade, come titolavate. Non si può bloccare le strade, non si deve bloccare le strade, non è possibile. Cioè, ci siamo detto il Corriere, ma anche gli operai, cioè, si può protestare in tanti modi, ma non è che si possa bloccare le altre persone che vanno a lavorare. Ah no, ma assolutamente. Ma aspetta, Vincenzo, un attimo. Massimo, la domanda che vuoi fare, che faresti di domanda a Cecil Kyenge? Guarda, io ne ho pronte 10 di domande, no, a Cecil Kyenge, perché stiamo per intervistarla anche noi. Ci hanno promesso un'intervista e stiamo per farlo. Comunque la principale è sicuramente sullo Ius Soli, secondo me. Se è certo. proprio convinta che qui in questo momento sia uno dei problemi degli italiani. E l'altra cosa che la apre questa domanda, nello stesso tempo la chiude anche, ma nel momento in cui un paese come l'Inghilterra, come la Gran Bretagna, che col multiculturalismo ha avuto molto più a che fare che noi, di noi, sta ripensando il modello dicendo che è fallito, ma vogliamo rifare la stessa cosa proprio qui in Italia a tempo scaduto? Che fastidio dà? Mi sembra, come dire, una cosa, cioè, una normalissima. No, ma Vincino, in Italia sono italiano, io sono siciliano. Ma no, non è così. Ma non la vuole così, così pura, non la vuole neanche la Kyenge comunque. Cioè, così pura, nasce. No, in realtà è uno Ius Soli temperato, cioè stanno i genitori qui da 5 anni. Comunque glielo chiederemo alle 8:30. Però Vincino, lo diventano, quelli che nascono qui lo diventano a 18 anni, ma qual è il problema? Tanto prima dei 18 anni non possono né votare né fare altre cose. Scusami, allora che cosa sono? Io sono nato in Italia e che cosa sono? Me lo spieghi? È un po', effettivamente, De Manzoni, è un po' lunga. Come, che cosa sono? Me lo dici? Cioè, è normale. No, perché il capo detto Gadda è stato apolide per un periodo. Sì, no? è vero. Aveva dei problemi. Cioè, ma io conosco un sacco di persone che hanno dei problemi per questo, nate in Italia, vissute in Italia per tanti anni e... No, ma la cosa... Nato in Italia, vissuto in Italia, 18 anni, diventa cittadino italiano, non è che ci siano discussioni. 7 anni, 8 però anni, è un po' lunga, italiana, effettivamente questa. È un po' lunga la procedura. Normale, cioè bisognerebbe fare... Semplifichiamo la procedura. Esatto, non bisognerebbe fare... È una cosa normale. Sono partiti. Il problema è evitare che... chiunque passi per l'Italia e partorisca in quel momento. Ma sì, ma questo non succede, questo non succederà. No, però quello che voglio dire è che c'è un atto questa qua che per partorire in Italia fa tutta questa fatica, arriva qua, c'è il figlio italiano. E ha ragione, ha fatto sta fatica e ha ragione. Ma come ha fatto sta fatica? Ha fatto sta fatica a venire qua, a partorire in Italia, il figlio italiano, è normale, insomma, è una cosa che la cosa che mi fa specie è che ci saranno pochi. Saranno pochi, ma quando un ministro della Repubblica nera, perché lei la stessa si definisce così, va a Bergamo e saranno pochi, ma c'è gente che dice disinfestiamo, puzza, no, che schifo, ci sono stati. Cosa vuol dire? Quelli sono cretini, tu mi hai chiesto di fare una domanda alla Kyenge, non di parlare questo sì, ma voglio dire, ma siamo a questo livello, cioè di là hanno un presidente americano nero e nessuno si pone questa cosa, e noi perché abbiamo un ministro, che puzza, succede? Ma dai. Uno nasce in America è americano, l'America sono... è il capolavoro della però sono gli unici, la Francia, la Gran Bretagna no. Comunque, insomma, avete scaldato il dibattito per l'arrivo del ministro. Grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e a Vincino, condirettore del Male. Ricordatevelo, è tempo di giornale radio, ci ritroviamo subito dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:17 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali insieme a voi in questa parte di 24 Mattino. Vi ricordo gli ospiti che avremo più tardi. Beh, intanto avremo uno dei politici, una delle politiche più chiacchierate negli ultimi tempi e sulla quale c'è maggiore attenzione mediatica, il ministro all'integrazione Cecil Kyenge sarà il nostro ospite alle 8:30, dalle 8:30 alle 9. Alle 8:15 invece avremo il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle, colui che ha sollevato il caso dicendo Mediaset deve essere oscurata, non ha le autorizzazioni per andare in onda, un'accusa alla quale ha risposto subito l'azienda. Dunque, questi gli ospiti, più avanti, alle 8:15 il senatore Giarrusso, alle 8:30 il ministro Kyenge. Intanto andiamo a leggere i giornali. questo venerdì 12 luglio. I titoli, Il Sole 24 Ore apre sul mercato che dà fiducia ai BTP, questo è il titolo di apertura. Mentre la questione politica tiene banco ancora con le polemiche dopo la Cassazione fissata al 30 luglio, la giornata convulsa dell'altro ieri, questa volta però i giornali si concentrano su una crisi che paradossalmente ha investito più il PD. PD nel caos, basta autogol, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica invece processo Berlusconi, scontro nel PD. La Stampa, Berlusconi avanti con Letta ma scoppia la rivolta nel PD. Il Fatto Quotidiano, in ginocchio dal Caimano, gli elettori PD in rivolta. Per Il Messaggero, caso Berlusconi, bufera nel PD. Ecco, come vedete, insomma, tutta la situazione sembra ribaltata con un paradosso nel Partito Democratico. L'Unità, la sfida PD, pronti a tutto. E anche il Manifesto, il titolo Amici del Giaguaro, e l'accusa è a quelli del Partito Democratico. Il Giornale invece, la campagna d'odio, volevano spegnere Mediaset, ecco il caso portato alla luce dal senatore Giarrusso. Libero insiste, in caso di condanna grazia a Silvio, ci sta anche Letta. Allora, queste sono alcune delle aperture dei giornali, altre le vedremo più avanti. Voglio subito andare a quello che Il Sole 24 Ore mette in prima pagina come inchiesta sull'economia sommersa globale. È un'inchiesta firmata da Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi. È un'inchiesta che riguarda l'evasione fiscale. Ebbene, il dato, il titolo è Tasse che non tornano, i globetrotter dell'evasione fiscale. Il dato da cui si parte è questo. Negli ultimi 5 anni la Guardia di Finanza ha scovato e recuperato a tassazione 49,7 miliardi di euro. Il paradiso, scrivono Galullo e Mincuzzi, per gli evasori fiscali italiani non può attendere, soprattutto quando è a 2 passi dall'Italia o è a portata di mouse. Tra trasferimenti di comodo delle residenze di persone fisiche e società, spostamento all'estero di capitali attraverso atti negoziali, operazioni di ristrutturazione societaria formalmente ineccepibili, operazioni di transfer pricing, negli ultimi 5 anni la Guardia di Finanza ha appunto scovato e recuperato a tassazione 49,7 miliardi di euro. L'inchiesta poi continua nell'intera pagina 8, detto con un parametro di riferimento. Si tratta del doppio del PIL che l'Expo 2015 produrrà in 8 anni, secondo il presidente della Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli. Per dare un'idea dell'escalation, tra l'altro, basti pensare che nel 2008 la maggiore base imponibile, scoperta attraverso 65 verifiche, fu di soli, al confronto, 5,2 miliardi. Il 2012 è stata di 17 miliardi. In mezzo un'impennata che parla da sola, 5,8 miliardi nel 2009, 10,5 miliardi nel 2010, 10,9 miliardi nel 2011. Insomma, questi sono invece i tassi recuperati, i miliardi recuperati negli ultimi 5 anni, 49,7. I casi di evasione fiscale, scrive Il Sole, internazionale, scoperti nel corso delle indagini del 2012, hanno riguardato operatori economici con sede in Lussemburgo, 93 casi, Irlanda, 59, Svizzera, 45, Gran Bretagna, 41, Stati Uniti, 38, Principato di Monaco e San Marino, 26 casi, e in altri 27 paesi, tra i quali gran parte dei paradisi fiscali nelle blacklist italiane. Gli italiani si accorgono degli evasori internazionali veri o presunti solo quando salgono alla ribalta della cronaca mondiale personaggi come Dolce e Gabbana, stilisti condannati in primo grado a Milano a 1 anno e 8 mesi per evasione fiscale. In attesa dell'appello spicca l'accusa della giustizia tributaria, vale a dire una condotta di abuso di diritto posta in essere al solo scopo di procurarsi un vantaggio fiscale. Comunque questo è il dato da cui si parte in questa inchiesta sui globetrotter dell'evasione fiscale, scovati 49,7 miliardi di euro negli ultimi 5 anni dalla Guardia di Finanza e recuperati. Un dato che stride con l'altro dato che trovate su tutti i giornali, vale a dire i non incassati 545 miliardi che potrebbero essere evasi, questo per esempio è il titolo dell'Unità, dal 2000 al 2012, cioè a fronte di 807 miliardi accertati dal fisco ne sono stati riscossi solo 69, l'80% dell'ammanco è riconducibile ad appena 121.409 grandi debitori, quindi poche persone per diciamo debiti con lo Stato, chiamiamoli così, molto molto grandi e molto ampi. Questa invece che vi do è una notizia classica per la quale la premessa è la solita: tenete strette le mani sul volante se state guidando per evitare casini, appoggiate le tazzine del caffè, soprattutto se è caffè bollente, appoggiate le brioche soprattutto se hanno la crema, perché sennò succedono disastri. Allora, Libero oggi inizia un'inchiesta sui super stipendi della Camera, la casta di Montecitorio. Per la verità non è, diciamo, nuovo come filone giornalistico, per usare un eufemismo, però ci sono dei nuovi dati. Allora, Fausto Carioti, pagina 15 di Libero: il Parlamento italiano è l'unico posto di lavoro al mondo in cui esiste la indennità di immissione dati. E direte voi, e che diavolo è questa cosa? Significa che gente già pagata in modo ottimo e abbondante viene ulteriormente compensata per il sacrificio che compie nell'usare normalissimi computer. È quello che fate voi, cari italiani, state andando nei posti di lavoro, dovrete immettere dei dati nei computer, no? E sappiate che per questo i dipendenti della Camera godono della indennità di immissione dati. Provate a chiederla al vostro datore di lavoro adesso, appena arrivate, poco dopo il caffè, dite: caro amministratore delegato, caro presidente, vorrei la indennità da immissione dati. Poi mandatemi una mail a 24mattino@radio24.it e gentilmente fatemi sapere la risposta. Comunque, cosa scrive Libero? Che nel terziario più o meno avanzato fanno tutti da una ventina d'anni, e cioè inserire dei dati, e che ormai è prassi comune anche in Sierra Leone, nello Yemen meridionale, ma in Parlamento altrove, ma il Parlamento italiano è un luogo dell'altrove, un extramondo fuori dal tempo, dallo spazio, una barriera invisibile impedisce alla crisi di entrare al palazzo. Non è colpa loro, è che quando si hanno certi stipendi risulta difficile provare empatia per gli sventurati abitanti del pianeta Terra. Pensate, il segretario generale della Camera Ugo Zampetti ha un imponibile annuo di 405.000 euro, i vice segretari generali 305.000 euro. Tra l'altro, curiosità, uno dei vice segretari generali è Aurelio Speziale, uno dei vice segretari generali della Camera è Guido Letta, che non è un cognome a caso, è il cugino di Enrico Letta, il premier. Ovviamente è un caso, scrive Libero. E poi ancora avanti, il bilancio 2013 della Camera dei Deputati di 1.062.000.000, di questi 784 milioni, quindi oltre i tre quarti, se ne vanno in stipendi e pensioni per gli onorevoli deputati e il personale di servizio. Il progetto che c'è allo studio del segretario generale della Camera parte dalle cosiddette indennità di carico, per le quali nel 2013 sono stati messi a bilancio 4.490.000 euro. Si dividono in indennità di funzione, di cui godono circa 500 addetti, e indennità di natura contrattuale, che vanno a vantaggio di 235 dipendenti. Tra queste indennità figurano proprio l'indennità meccanografica e quella per la immissione dati. L'indennità meccanografica me la sono persa. L'indennità meccanografica, interessante, poi la studio meglio. Comunque un'intera pagina su Libero promette di continuare. Libero, prima avevamo il vice direttore Massimo De Manzoni a dire: sarà solo la prima puntata di quello che è il mondo del Bengodi di Montecitorio, dove c'è la indennità da immissione dati. Ah, che roba straordinaria, l'indennità da immissione dati. A proposito, vi devo dire questa, sui saggi abbiamo perso un saggio, una saggia, la professoressa Lorenza Carlassare, che per la verità fino al primo momento era abbastanza così, poco convinta. La professoressa Carlassare ha mollato e non fa parte più dei saggi, non pensa più insieme ai saggi, fa tre interviste, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, che titola Le sagge dimissioni. La Carlassare lascia il comitato dei saggi per Repubblica, per esempio Matteo Pucciarelli: lo stop del Parlamento è una disfatta morale, cioè il fatto che sia fermato il Parlamento per mezza giornata è la causa di tutto questo. Voglio fare una premessa: mi sono trovata bene nella commissione con Quagliariello, ottimi rapporti, ma qualcuno doveva fare pur qualcosa. Certe cose non succedono nemmeno in Africa. Non so se ci rendiamo conto, sempre questo atteggiamento a dire nemmeno in Africa, come se siano dei sottosviluppati. La professoressa Carla Sare dice: queste cose non succedono nemmeno in Africa, cioè la sospensione dei lavori. Peraltro l'Africa è grande, eh? Ci sono diversi paesi, nemmeno in Africa, come dire, nemmeno in Asia. E comunque ha deciso di lasciare lo stop del Parlamento di sfatta morale e quindi abbiamo perso un saggio. In compenso il Senato, perché si dice che non si lavora, invece si lavora, ieri in Senato è stato approvato il disegno di legge costituzionale per creare il comitato dei saggi di 42 parlamentari, 21 della Camera, 21 del Senato, che da ottobre per 18 mesi dovranno studiare le riforme. Questo quando i saggi attuali, 35 meno una che ci ha lasciato Carla Sare, più i 7 scribi, più l'uomo di raccordo che è il presidente della Corte d'Appello di Bari, l'uomo di raccordo con il Parlamento, daranno a ottobre le relazioni di quello che sono stati i loro incontri tutti lunedì, nei quali, come ci ha detto il professor D'Onofrio, pensano, e tutto questo dopo che sarà conclusa la consultazione online, attualmente ancora in vigore, aperta a tutti i cittadini sul sito del governo, a dire: cari cittadini, diteci un po' voi, come cambiereste, che riforme costituzionali fareste? Ecco, questa è la procedura. In autunno si sbloccherà tutto. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Sì, vabbè, sono le 7:35 minuti, siamo qui ancora a leggere i giornali. Allora, la politica via un'altra giornata di cosiddette fibrillazioni, termine orribile, io non lo sopporto tanto quanto divisivo, forse è una gara tra i due termini peggiori coniati dai giornali negli ultimi tempi, fibrillazioni di governo, soprattutto dopo che ora la tensione è più che all'interno del Popolo della Libertà, che tra l'altro da prossimo autunno, in autunno succede tutto, cambierà anche il Popolo della Libertà, pare si torni a Forza Italia, e invece tutto questo si è spostato come tensioni all'interno del Partito Democratico. Comunque ieri, tra l'altro, raccontano sia Repubblica che Il Messaggero, a un certo punto, in un retroscena politico, a un certo punto Enrico Letta, il premier, ha chiamato Silvio Berlusconi, oppure gli ha mandato un messaggio per interposto zio Gianni Letta, questa almeno è la versione di Repubblica. Francesco Bei, a pagina 6, il premier chiama il cavaliere, così mettete a rischio tutto. Che sia stata una telefonata in diretta, come dicono, oppure una comunicazione per interposto zio, o uno scambio di sms come hanno preso a fare, poco importa. Cioè, quindi, secondo Repubblica, si scambiano sms Letta e Berlusconi. In ogni caso, il messaggio che Enrico Letta ha fatto arrivare a Berlusconi è stato molto chiaro, senza giri di parole. Un altro giorno così non ce lo possiamo permettere. Questo logoramento sta danneggiando tutti noi all'estero. State mettendo a rischio tutto. Il declassamento di Standard & Poor's è stato il primo segnale. Le critiche della trasmissione di punta della CNN all'Italia, paese degli scioperi, sono stati la seconda avvisaglia della tempesta. In un momento in cui Saccomanni sta facendo l'impossibile per evitare una manovra correttiva che faccia restare il bilancio all'interno del vincolo del 3%, ecco che la preoccupazione di Enrico Letta era quella di dire a Berlusconi, e lo ha fatto o via sms o via telefonata o per interposto zio Gianni Letta, di dire basta, perché così non reggiamo. Anche per Il Messaggero è andata più o meno così, nel retroscena di Alberto Gentili che trovate a pagina 3, l'ultimatum di Letta al cavaliere: ora basta o sarò io a lasciare. Una dura telefonata tra i due, assumetevi le vostre responsabilità. Io non resto a ogni costo. Raccontano, scrive Gentili, che Enrico Letta sia stato molto duro. A Palazzo Chigi riferiscono che quando il premier ha chiamato Berlusconi non ha usato giri di parole, anzi, non vado avanti a tutti i costi, ha detto Letta al cavaliere. Se non siete in grado di reggere il peso della responsabilità di sollevare insieme il paese, se non siete in grado di separare le vicende giudiziarie dal sostegno al governo, salta tutto e ve ne assumete per intero le responsabilità. Non sono disposto a restare al governo a dispetto dei santi. Questo dunque, secondo Il Messaggero e anche per Repubblica in maniera un po' sfumata, è il tono della telefonata che Enrico Letta ha fatto a Silvio Berlusconi, un Silvio Berlusconi che per la verità ieri ha radunato i suoi e ha E ha vestito i panni della colomba, giusto per usare questa metafora, visto che tra colombe, falchi, pitonesse, piccioni, tacchini, e caimani, insomma, il giaguari, lo zoo della politica è molto molto ampio. Ebbene, avrebbe indossato ormai i panni della colomba Berlusconi a dire, dopo aver radunato i suoi, che li ha mandati un po' avanti, no? In dichiarazioni anche molto molto dure, blocchiamo tutto, facciamo questo, e poi adesso la linea sarebbe no, fino al 30 luglio tutto deve rimanere così. Tommaso Labate, a pagina 3 del Corriere della Sera, il retroscena, niente colpi di testa. Questa è la frase di Berlusconi, l'idea di un appello rivolto agli elettori. Quindi ha raccolto Berlusconi tutte le indicazioni dei suoi più stretti collaboratori. Tra queste, scrive Labate, io sono rimasto basito quando l'ho letto, l'ipotesi avanzata da Daniela Santanchè di bloccare il paese cominciando dalle autostrade. Ma come bloccare il paese cominciando dalle autostrade? Questa, secondo il Corriere, è la proposta che ha fatto Daniela Santanchè a Berlusconi, bloccare il paese a cominciare dalle autostrade. Bah. Vabbè, proposta 48 ore fa dalla pitonessa alla suggestione di spaccare gli italiani a metà, ventilata dal coordinatore toscano del partito Verdini. Berlusconi ha ascoltato tutto questo e poi ha detto no, teniamo una linea più morbida. Tutto deve rimanere così e non deve succedere nulla fino al 30 luglio. L'unica iniziativa, racconta il Corriere, che starebbe studiando Berlusconi è scrivere nelle prossime settimane una lettera al suo popolo invitandolo a mantenere la calma e a tenersi distante dalla tentazione di ricorrere a manifestazioni anche spontanee di piazza. Questo per il Corriere. La verità è che per il giornale avrebbe definito, in un colloquio ieri con i suoi più stretti collaboratori parlamentari, Berlusconi i PM come una società segreta, questo è il titolo del giornale, pagina 3, Francesco Kramer, PM come una società segreta, però la Corte mi darà ragione. Ecco, si sta instillando in Silvio Berlusconi l'idea e la convinzione in realtà che la Cassazione poi respingerà la condanna in appello e riformerà, quindi non ci sarà la condanna definitiva per lui. E il Fatto Quotidiano la vede dal punto di vista televisivo. Carlo Tecce, a pagina 4, è vero, Berlusconi magari è calmo dal punto di vista politico, dire predica calma, ma in realtà, scrive il Fatto, il Biscione prepara la teleguerra in difesa del capo. È stata subito mobilitate tutte le redazioni di Mediaset, ogni calendario, scrive Tecce sul Fatto, deve contenere quel giorno, il 30 luglio, martedì, cerchiato di rosso, ogni foglietto, ogni previsione, ogni appunto, bisogna essere pronti, un segnale e avanti, perché se il padrone sta per affogare in Cassazione, Mediaset deve organizzare i soccorsi disperati, ma pur sempre rinunciabili soccorsi. Ecco che quindi verrà anticipato il programma settimanale Dentro la Notizia, previsto per autunno. La prima reazione a quel giorno temuto, il 30 luglio, scompiglia l'andatura dei palinsesti di Cologno Monzese. Insomma, racconta il Fatto Quotidiano, sarebbero tutti i vertici di Mediaset, giornalistici, redazione, mobilitati per cercare di reagire in caso di un'eventuale condanna. Renato Brunetta fa un'intervista a Libero, non ci arresteranno tutti, riformiamo la giustizia, dicendo dobbiamo a questo punto mobilitarci per il referendum dei radicali e sono curioso di vedere chi all'interno della magistratura avrà ancora una volta reazioni corporative e di casta. Abbiamo deciso di mobilitare il PDL, tutte le coscienze italiane, basta con l'accanimento giudiziario, basta con l'uso politico della giustizia, basta con lo strapotere dei PM. Intervistato da Tommaso Montesano dice non ci arresteranno, ci sarà un giudice a Berlino, se no si vota. Ma come detto, il vero riflesso di tutto questo è sul PD. Quasi incredibilmente, oppure no, se è vero che il governo delle larghe intese non è appoggiato da moltissimi anche della base del Partito Democratico che non l'hanno mai digerito, non hanno digerito neanche il fatto che due giorni fa sia stato sospeso per una mezza giornata, sia stati sospesi i lavori parlamentari su richiesta del gruppo del Popolo della Libertà. E allora il PD è a rischio implosione, leggo il titolo a pagina 4 del Corriere della Sera, orgoglio o è la fine, 70 senatori. Veltroniani, Bersaniani, giovani turchi, per capire il tipo di corrente, insomma, a chi sono vicini, 70 senatori del PD hanno fatto una lettera aperta chiedendo, insomma, che il partito spieghi meglio il perché queste persone hanno sostenuto la richiesta del Popolo della Libertà di sospendere per un giorno il Parlamento. Lettera ai 70 senatori, sostegno al governo, ma il partito si spacca sulla ineleggibilità di Berlusconi e riparte la solita tiritera, sempre il Corriere della Sera con Maria Teresa Meglia, pagina 4, riparte l'accerchiamento contro i renziani, dicano se staranno con Letta fino in fondo. C'è anche un'intervista al segretario del PD, Guglielmo Epifani, intervistato da Claudio Tito su Repubblica. L'esordio è molto molto duro, preoccupato, è chiaro che lo sono. Gli strappi del Cavaliere, gli imbarazzi della base democratica, dice Epifani, quel che è accaduto l'altro ieri è stato descritto però in modo esagerato. È stato esagerato perché tutto nasce dalle parole di Brunetta, quelle sì al limite dell'eversione. Dice Epifani, quando si chiede di bloccare le Camere per 3 giorni, si minaccia l'Aventino, le dimissioni in blocco, allora certo la risposta non può che essere ferma. Al Senato però Schifani ha motivato tutto in modo diverso, si è limitato a chiedere di far discutere il gruppo. E poi c'è un altro aspetto, non è vero che non si è lavorato, lo si è fatto fino alle 17, dando il tempo dopo per le loro riunioni. Insomma, dice Epifani, è stato esagerato. La verità, abbiamo fermato un blitz eversivo, quello di bloccare per 3 giorni il Parlamento. Comunque, dice Epifani, la questione per noi è semplice, sentenza o non sentenza di Berlusconi il 30 luglio. Se ci fanno lavorare per affrontare la crisi di questo paese, bene, altrimenti basta. E questo è infatti il titolo dell'intervista, non ci siamo piegati a Berlusconi, ora stop agli strappi o è meglio lasciare. Insomma, come vedete, le fibrillazioni di governo ci sono. Ieri Enrico Letta, oltre ad aver chiamato retroscena Berlusconi, è andato anche a un convegno per ricordare il suo maestro Beniamino Andreatta, ha parlato in maniera dura del vociare per stare nei TG, cioè basta questo vociare per stare nei TG con dichiarazioni effimere che durano un giorno. Interessante da questo punto di vista a livello politico l'intervista che trovate a pagina 11 di Repubblica al capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra, che dice, già nel titolo è tutto un programma, un governo col PD? Non lo escludo se c'è un'intesa su 5-10 punti. La fiducia a un governo con il PD non posso escluderla, dice Morra a Tommaso Ciriaco, che lo intervista. Naturalmente passando sempre da un momento assembleare. Abbiamo sempre detto che siamo pronti a sostenere i provvedimenti che riteniamo utili per i cittadini, indipendentemente dal fatto che a presentarli sia il PD o il PDL. Insomma, questo messaggio politico non è un messaggio da sottovalutare. Vuol dire, per caso, dovesse mai cadere, caro PD, l'alleanza con il PDL, sappiate che noi del Movimento 5 Stelle potremmo essere pronti a dare quel sostegno politico che qualche mese fa invece come fiducia non abbiamo dato? Beh, Nicola Morra dice, io non escludo un'eventuale fiducia e un governo col PD. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Oh, tra poco sveleremo il vincitore del premio La Carta Costa, anche di oggi, l'articolo più inutile scovato sui giornali. E intanto per la politica ricordiamo che il Movimento 5 Stelle avremo il senatore Giarrusso alle 8.15 a spiegarcelo, ha detto Mediaset, per quello che consta a noi, non ha le concessioni, va oscurata se non ha le concessioni. La replica dell'azienda è: siete ignoranti, non esistono più le concessioni, siamo assolutamente in regola, giornale titola volevano oscurare Mediaset, insomma battaglia anche su questo. Ah, tra l'altro all'interno di questo articolo a fianco, a pagina 7, torna una notizia, anche questa da Mani sul Volante. Sapete cosa hanno contestato a 7 consiglieri, ex consiglieri della Regione Lombardia? Ancora 500.000 euro, quella vicenda vecchia, tra queste spese... pranzi con ostriche e champagne, un tipico piatto che anche voi durante la pausa pranzo, per chi lavora, per chi non ha lavoro, durante il pranzo quotidiano, ostriche e champagne, è una cosa, è il menù tradizionale che quasi tutti i giorni vi ritrovate sulle vostre tavole, ovviamente tutto a spese della Regione Lombardia, quindi a spese nostre, di tutti noi italiani. Va bene, l'economia, allora, l'Italia supera il test delle aste BTP, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Sull'economia è interessante l'editoriale che Alberto Alesina e Francesco Giavazzi scrivono in prima pagina del Corriere della Sera, l'insuperabile tabù italiano, che è quello di tagliare la spesa per Alisina e Giavazzi. Scrivono i due professori: la scorsa settimana Letta ha comunicato di aver ottenuto un grande successo, maggior flessibilità per i nostri conti pubblici. Poiché il governo Monti prevedeva per il 2013 un deficit del 2,9%, maggior flessibilità dovrebbe significare poter oltrepassare il limite del 3%, altrimenti dove sarebbe la maggiore flessibilità? Poche ore dopo il ministro Saccomanni ha spiegato che sarà difficile trovare spazio per evitare aumento dell'IVA o eliminare l'IMU. Non sorprende, insomma, che tanti cittadini siano confusi, non capiscano cosa intenda fare il governo. Proviamo a capire, questa è la premessa di Alesina e Giavazzi. E dicono: di tutto l'Italia ha bisogno, tranne che di più spesa pubblica. I consumi delle famiglie sono scesi del 6% in 2 anni. L'Italia invece ha bisogno di meno tasse sul lavoro per far crescere l'occupazione, meno tasse sui consumi per far ripartire la domanda. Aumentare la spesa pubblica significa che prima o poi le tasse dovranno crescere ancora di più. Insomma, non bisogna sorprendersi se Standard & Poor's giudichi l'Irlanda, che ha un debito elevato quasi quanto il nostro, più affidabile dell'Italia. Noi, infatti, continuiamo a commettere il medesimo errore. Lo fece il governo Monti 2 anni fa e se non si taglia le spese lo ripeterà Letta oggi. Non siamo capaci di varare un piano credibile di radicale riduzione delle uscite, quindi ci affidiamo all'aumento della pressione fiscale. E la sola cosa che finora i governi hanno saputo fare è stato incrementarla, questa pressione fiscale, peggiorando la situazione. Un circolo vizioso che sta distruggendo l'economia. Così Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera. A proposito di Corriere della Sera, c'è un interessante articolo a pagina 18, Fabrizio Caccia, che racconta anche il mondo del lavoro italiano. Ricordate quando l'ex ministro Fornero disse che i giovani non devono essere troppo choosy, schizzinosi? Ebbene, c'è un'intervista che è stata fatta dalla Gazzetta del Mezzogiorno, rilanciata oggi dal Corriere della Sera, a Stefano Cigarini, 45 anni, che con la società di cui è amministratore delegato gestisce i parchi del divertimento a Molfetta e a Valmontone, che dice, fa capire insomma che forse il ministro non aveva tutti i torti. Quei no dei ragazzi a impieghi da 800 euro al mese. Fabrizio Caccia: lo sa quando mi sono cadute proprio le braccia? Quando un ragazzo di 22 anni che aveva superato le selezioni ha detto: qui da voi tutto bello, grazie, ma preferisco rinunciare, se no perdo l'indennità di disoccupazione. Ha capito bene? Così inizia Stefano Cigarini il suo racconto, amministratore delegato di due dei più grandi parchi di divertimento in Italia, che dice: c'è il ragazzo che non vuole sacrificarsi, non vuole perdere le vacanze estive, non vuole, dice che 800 euro non va bene. C'era chi non voleva lavorare nei weekend, chi non voleva perdersi il Ferragosto, chi l'uscita del sabato sera con la fidanzata. Insomma, come diceva l'ex ministro Fornero, generazione Ciusi, sarà vero? Beh, di la verità, sul web l'intervista ha scatenato un putiferio. C'è chi dice: ma no, ma lì propongono il contratto a voucher, non ti danno diritti a un bel niente, noi giovani non dobbiamo sempre accontentarci. Insomma, il dibattito però c'è ed è partito riguardo a questa intervista di questo amministratore delegato che dice: quei no dei ragazzi a impieghi da 800 euro al mese, troppo choosy? Chi lo sa. A proposito di Fornero, Libero fa sapere che 191 esodati hanno denunciato l'ex ministro Fornero per mobbing sociale. La vendetta degli esodati denunciata alla Fornero. Trovate tutto a pagina 13 di Libero. Ma eccoci qui al momento del premio La Carta Costa. Siamo anche oggi sul Corriere della Sera con Elisabetta Rosa Spina, che a pagina 20 racconta il dramma delle donne francesi. E qual è il dramma delle donne francesi? Lo stress e il calo della libido dei maschi francesi. Se anche il tombeur de femme finisce dal sessuologo. Mezza pagina. Oh no, le francesi si lamentano delle loro sempre più tiepide serate domestiche, svanito almeno nelle giovani generazioni il ricordo della voce roca di un insaziabile Serge Gainsbourg in Je t'aime, moi non plus. La popolazione femminile d'Ontralpe si interroga, tutte le donne in Francia che si interrogano su che fine abbiano fatto gli appetiti maschili un tempo censurati dei francesi. Non ci sono più i tempi di Alain Delon, di Vincent Cassel, di Jean-Paul Belmondo. Ormai i francesi, maschi francesi, finiscono tutti dal sessuologo. E il Corriere della Sera ci dedica mezza pagina. Dedica mezza pagina a questo tema, dimenticando che la carta costa, cari amici del Corriere. 24 mattino. Eccoci, eccoci alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, detto che alle 8:30 avremo ai nostri microfoni il ministro Cécile Kyenge per parlare di integrazione. Prima però vogliamo parlare di attualità politica. Saluto il senatore Mario Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Senta, sa che oggi il giornale titola "Volevano spegnere Mediaset". Lei E perché questa risata, senatore Giarrusso? No, perché è stata presa un'iperbole che ho esposto ieri e ne hanno fatto un titolo, ovviamente per nascondere il cuore della vicenda. Cioè lei ha detto lei ieri ha detto che Mediaset forse è abusiva, cioè non ha le concessioni? Io ho detto una cosa, ho detto che in giunta, quando abbiamo iniziato a trattare la questione della ineleggibilità di Berlusconi, il senatore Casson ha chiesto di acquisire i titoli che abilitavano alle trasmissioni Mediaset per vedere la compatibilità con la norma del 57. Sì. No, lei sa che la norma del 57 prevede l'ineleggibilità per chi è titolare di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica. E quando ha chiesto... A questo punto c'è stata l'opposizione di un senatore del PDL. Sì. Si è opposto. Siamo rimasti sorpresi dell'opposizione, perché l'opposizione verteva su questo fatto. Non c'erano, secondo questo senatore, né autorizzazioni né concessioni alla gestione, diciamo, delle trasmissioni televisive. Sosteneva che la legge non le prevede più. Al che Casson ha detto: mandiamo la Guardia di Finanza e verifichiamo se ci sono. Sicuramente, secondo Casson, le trova la Guardia di Finanza. Sì. Io ho detto, ma se non le trova, che facciamo? Bisogna applicare la legge, no? E quindi dice: se non ci sono, è un abusivo di fatto. Se queste cose non... Ma se lo dicono loro che non ci sono autorizzazioni. Però in realtà, visto che Mediaset ha replicato, effettivamente non servono più. Che ci sono, no? Ha detto che ci sono le autorizzazioni, sono autorizzazioni generali. Ora, le autorizzazioni generali, siccome non li rilasciano i posteggiatori abusivi, ma le pubbliche amministrazioni, no? Quindi sono autorizzazioni amministrative. Sì. Ma lei ha questo sospetto davvero che possa essere abusivo secondo la legge Mediaset? Ma secondo noi è abusivo Berlusconi in Parlamento dal 94. E non è solo secondo noi, ma anche secondo le risultanze della sentenza Mediaset. Questo perché per la famosa ineleggibilità di cui state discutendo, è abusivo. Esattamente, sì. È abusivo. Sì, esattamente. E quindi i parlamenti precedenti che hanno fatto? Un abuso nel concedere... Sicuramente nelle altre legislature ha trovato persone che erano pronte a sottostare ai voleri di Berlusconi. In questo sicuramente non sono tutte così. È un po' più da quando c'è il Movimento 5 Stelle, le cose sono molto cambiate. Però lei dice abusivo Berlusconi, ma sulla questione Mediaset lei in realtà è convinto che alla fine si troveranno le autorizzazioni? Cioè, non è stata un po' una come dire, una fuga in avanti? Un autogol del PDL. Se la linea difensiva è non abbiamo autorizzazioni, e allora che cosa dobbiamo dedurre? Ma no? In realtà, scusi, Mediaset ha fatto una nota dicendo è tutto in regola, quindi... Sì, ma sono d'accordo, però dobbiamo acquisire, noi stiamo discutendo della ineleggibilità di Berlusconi. Sì, certo, e quindi dovete acquisire... In base alla norma che prevede che il titolare di un'autorizzazione amministrativa di rilevante entità economica non possa essere leggibile. Quindi quantomeno dobbiamo vedere questa autorizzazione generale di chi è titolare, da dove proviene, perché in ogni caso... La norma che loro citano, il decreto legislativo del 2005, il 177, che parla comunque di titoli abilitativi. Sì, sì. Ora, qua è il punto dirimente. Insomma, voi volete vedere le carte. Quando si parla di titoli abilitativi, stiamo parlando di autorizzazioni, mi segue? Sì, certo, ma senatore, ma quindi cosa vuol dire che la Guardia di Finanza andrà a Mediaset a controllare? Ma guardi, questa l'ha proposta Felice Casson, di fronte all'obiezione che non volevano produrre la documentazione. Quindi saremo costretti a farlo. Lei si rende conto che noi dobbiamo discutere di una cosa e vorremmo discutere con i documenti. No, è chiaro, dovete acquisire, secondo il suo punto di vista, dovete acquisire gli elementi. Senta, ma al di là di tutto, Berlusconi abusivo, ha visto insomma questa sentenza del 30, lei si auspica che cosa che succede il 30 luglio? Io mi auspico che vinca la giustizia, come sempre, che sia fatta finalmente giustizia in questo paese. È stato un atto gravissimo e vergognoso quello che è accaduto due giorni fa, bloccare il Parlamento perché un tribunale ha fissato un'udienza penale a carico di un soggetto già condannato per fatti gravi è un atto, non ha precedenti nell'Occidente. Ovviamente noi è da tempo che siamo fuori dalle democrazie occidentali grazie a questa gestione del potere. L'ultimo caso con la Shalabayeva, che voi certamente conoscete, ci avvicina di più alla Repubblica delle Banane, ai narcostati, che non a uno Stato democratico. La vicenda del Kazakistan, la rendition Kazakistan. Vabbè, Kazakistan. Però sì, questa è una cosa altra. Non siamo in democrazia occidentale. Dice. Ma e quindi se il 30 luglio arrivasse... Ma non sono comportamenti che sarebbero ammissibili. Lei pensa che in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Spagna... Guardi, perfino in Grecia non sarebbe potuto accadere una cosa del genere. Adesso andranno accertate, comunque succedono cose un po' in tutti gli stati, magari un po' poco chiare. Sì, vabbè, ma che si fermi il Parlamento perché viene fissata un'udienza penale a carico di un imputato già pluricondannato? Non si riferiva al Kazako, si riferiva al fermo del Parlamento. Senta, ma se venisse condannato Berlusconi, quindi cosa dovrebbe fare? Voi cosa fate in giunta? Lavorate tutto agosto pur di... Guardi, il Presidente, molto correttamente, il Presidente della Giunta già ha detto che è disponibile a lavorare a chiarire questa cosa. Sicuramente non ha intenzione di fare come ha fatto... I precedenti presidenti di giunte quando per Previti tirarono alle lunghe per un anno e mezzo. Si vuole fare le cose un po' più in fretta. Mi dica una cosa, ma ha fatto pace con Vito Crimi? All'interno del... c'era quel... ma c'era quella volta che vi siete incontrati e lei l'ha mandato un po', va, che è arrivato in ritardo. No, gli ho detto vai, perché erano ancora in corso le votazioni. Cioè, sì. Se lui correva poteva arrivare a votare la seconda volta. Perché ricordiamo che lei... le vicepresidenze e le segreterie. Lei sperava di diventare presidente di questa... Aspetti, non è una questione personale. Io sono stato indicato dal movimento... Sì, lei come è la principale forza di opposizione, praticamente l'unica in Parlamento, come presidente della Giunta. Perché, sa, la Giunta è un organo di garanzia. E spetta per consuetudine alle opposizioni. Sì. E quindi sperava che fosse lei e non Stefano Di Sella, insomma, sperava che fosse. Però le chiedo questo, ma è davvero lei una volta disse che 54 senatori ha il Movimento 5 Stelle in Senato abbiamo nessuna presidenza di garanzia. Sono in 7, non hanno neanche il gruppo, gli hanno dato la presidenza, ci sarà un motivo, no? Le chiedo Giarrusso, che motivo ci sarà, scusi? Comunque, devo dire, Stefano si sta comportando in maniera impeccabile. Cioè, li vede un po' troppo inciucisti, con... Ma non è questione di vederli, è nei fatti. Comunque, è salito in Parlamento grazie al PD con cui è alleato, e il PD è al governo. Hanno la presidenza della Camera, quindi... per proprietà transitiva, dice, per proprietà transitiva qualche mezzo inciucio. Erano alleati. Ora sono all'opposizione. Senta, le chiedo questo, ma oggi l'ultima domanda è questa. Il capogruppo suo al Senato, Morra, Repubblica, dice non è escluso che si possa appoggiare la fiducia a un governo col PD. Poi la base deciderà, eccetera. Però non è escluso. Lei lo escluderebbe? Guardi, io prima di fare il portavoce ai cittadini... in Senato facevo l'avvocato, non l'indovino. Non... Quindi cosa succederà da qua al 30? Io penso che lo vorrebbero sapere in tanti, e non lo sanno nemmeno i principali protagonisti, ah, tra certo. cui Berlusconi e Letta e gli altri. Veramente, vabbè. Secondo me non lo sanno. Vabbè, vabbè. Comunque... Io posso immaginare una cosa, comunque, sì. che tutto potrà fare Berlusconi tranne che tirare giù il governo. Ah, non ha la perché forza. È l'unico ombrello che si ritrova. Ah. Le faccio un ragionamento molto semplice. No, finito, cioè, via, la Cassazione, via quell'ombrello, che succede? Conferma le sentenze, sì. e dovesse cadere il governo e andare sì. alle elezioni, sì. Silvio Berlusconi si troverebbe in una situazione molto difficile, cioè nella situazione in cui si dovrebbe candidare una persona che ha una sentenza passata in giudicato e lo dichiara. Interdetto, non potrebbe, interdetto ai pubblici uffici, non potrebbe. Interdetto in maniera perpetua ai pubblici uffici, cioè la sua questione si fermerebbe ancora prima di essere eletto in Parlamento nelle circoscrizioni elettorali. No, ma è chiaro, e quindi questo creerebbe un problema. Guardi, io, senatore, staremo a vedere, il 30 luglio è vicino, chissà se ci sarà l'udienza, intanto la devo ringraziare e salutare perché deve andare in pubblicità. Senatore Mario Giarrusso del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi, tra 5 minuti avremo la ministra alla integrazione politiche giovanili, Cécile Kyenge. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:34 minuti in punto e fino a termine della trasmissione alle 8:55 con noi c'è la ministra per l'integrazione e le politiche giovanili, Cécile Kyenge, che saluto. Buongiorno ministra, grazie di essere con buongiorno, noi a Radio 24. Grazie. Intanto ci tolga il dubbio, la pronuncia è corretta, Kyenge, perché l'abbiamo sentita pronunciare in tanti modi. Sì, è corretto, Kyenge. Kyenge, perfetto. Allora, come sa, sono tanti temi da affrontare. Io partirei da quello che ha suscitato un po' più polemiche da quando lei si è insediata, vale a dire la questione della cittadinanza per gli stranieri. Ci vuole chiarire esattamente qual è la sua posizione personale sul cosiddetto ius soli, cioè chi nasce in Italia sia italiano, ma subito oppure come? Ci chiarisca. Sì, io vorrei anche io chiarire una posizione. In questo momento io rappresento un'istituzione, quindi sono ministra della Repubblica Italiana, e ho posto questo tema, lo ius soli, la cittadinanza, non tanto per imporre un modello, che il modello che avevo richiesto, cioè una proposta di legge che avevo presentato da deputata, ma in questo momento l'obiettivo era anche quello di suscitare un dibattito all'interno di un paese per far sì che la nostra legge, quindi la nostra legge, sia adattata a quello che è la nuova fotografia dell'Italia. Mm. E quindi in questo momento per me l'obiettivo era proprio quello di suscitare una riflessione profonda all'interno di tutti i partiti, all'interno delle istituzioni, ma la posizione personale è quella che avevo espresso nelle campagne precedenti, come quella per esempio l'Italia sono anch'io che avevo firmato, ma anche quella della proposta di legge, che era una delle prime proposte che avevo presentato al Parlamento. E in quella proposta parlavo di ius soli temperato. Temperato cosa vuol dire? Sì, esattamente. Ius soli temperato perché dipende anche dal un percorso di integrazione, dal numero di anni che fanno i genitori sul territorio. Cioè vuol dire, ministra, per capire, non è che automaticamente, come negli Stati Uniti, uno nasce in Italia da stranieri, diventa italiano automaticamente. Questo non lo prevede neanche lei? La proposta di legge che avevo presentato era uno ius soli temperato. Ora, se uno vuole discutere e parlare di cosa significa lo ius soli, si può parlare di tutti i tipi di ius soli che esistono, da quello puro, quindi secco, che è quella degli Stati Uniti, dell'Argentina, ma non sono solo loro, perché sono tanti altri paesi che lo prevedono. Ma in Europa non abbiamo lo ius soli secco, abbiamo in molti paesi quello che si chiama lo ius soli temperato, che parte da un percorso di integrazione dei genitori del loro progetto migratorio nel paese di accoglienza. Mm. Vi faccio l'esempio della Germania, oppure anche della Spagna, che è più permissiva, quella della Spagna che con i paesi che hanno avuto dei rapporti con loro in passato, come i paesi del Sud America, come le Filippine, a loro bastano 2 anni per poter richiedere dopo successivamente la cittadinanza e far sì che i figli che nascono dalle coppie, uno dei due che ha quel numero di residenza, possa richiedere la nazionalità ai figli. Sì. Quindi i figli che nascono possono prendere automaticamente, sì, la residenza. Secondo lei, Ministra, in questo dibattito che si è suscitato, quale potrebbe essere un numero di anni, secondo lei, accettabile per l'Italia? 2 anni è un po' poco oppure potrebbe essere 2 anni? È un po' presto per poterlo dire, le faccio l'esempio di tutte, cioè li elenco, sono 20 proposte di legge depositate al Parlamento, parte da quello secco a quello che ha un anno di residenza, a quello che ha 3 anni di residenza, la campagna di Italia Sono Anch'io ha un anno di residenza, la proposta che è stata presentata da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ha 3 anni di residenza, quello che ho presentato io da quando ero deputata ha 5 anni di residenza. E così via, ma in tutto questo ci sono proposte di legge di Scelta Civica, proposte di legge del PDL, ci sono tutti i partiti, sì, che hanno presentato una proposta di legge. Ma lei voleva, sì, suscitare questo dibattito, mi sembra che, le chiedo questo, secondo lei c'è riuscita, cioè in maniera, ha visto un dibattito serio oppure ha visto soprattutto reazioni, anche reazioni un po' indesiderate, reazioni isteriche, se mi permette? Anche le reazioni sono riflessioni, vuol dire che ha suscitato comunque interesse a poter discutere, poi le modalità e i modi con cui ogni persona reagisce purtroppo non dipendono, sono diverse da una persona all'altro, ma il dibattito è già partito, il dibattito è una riflessione all'interno del Paese, si fa all'interno delle sedi istituzionali che sono anche quelli che devono portare a compimento questo progetto, è già partito. Con una cosa in più, quindi non si parlerà soltanto dello Ius Soli, per la prima volta si parlerà anche tutti insieme quando si parlerà della riforma della cittadinanza nel suo significato più ampio anche per quanto riguarda lo Ius Sanguinis, cioè il legame di sangue, sì, i nostri cittadini all'estero, che non deve essere dimenticato. Questo sì. Ministra, io so che lei non ama tanto rispondere e replicare alle accuse che arrivano, sono stati anche attacchi molto duri, però anche ieri, per esempio, a Bergamo non l'hanno accolta né il sindaco né diciamo gli esponenti della Lega, ci sono state contestazioni. A lei che effetto fa quando sente delle accuse anche forti che le piovono addosso? Bisogna sempre valutare anche per quale motivazione arrivano. Io in questo momento non ho nessun problema, non ho nessuna cosa aperta con nessuna istituzione, per cui non, effettivamente non mi sento neanche di rispondere perché vado in una città dove il posto che rappresenta il governo è la prefettura. Per cui sicuramente il prefetto è l'autorità che mi rappresenta sul territorio. Beh, anche il sindaco, anche il sindaco, sì, però, esatto, di una città. Ci sono anche le altre istituzioni che sono sul territorio. Ora, le scelte che fanno queste altre istituzioni, sinceramente, quelli sono, credo sono anche personali. In questo momento io non li commento perché non entro nei particolari. Le chiedo dovere comunque andare sul territorio. Questo certamente. Le chiedo questo: chi prende una persona che prende un barcone per arrivare in Italia per cercare un mondo migliore, eccetera, sono migranti oppure sono immigrati clandestini, come dice la Lega? Ma è proprio qui che deve iniziare la rivoluzione secondo me, delle politiche per l'immigrazione, perché una buona politica dell'immigrazione, anzi, deve iniziare da una buona comunicazione, da una buona definizione anche di una terminologia, deve iniziare anche dal capire cosa significa il fenomeno migratorio. Questo sarebbe già una rivoluzione, perché sposterebbe anche l'approccio che noi abbiamo verso le persone che arrivano, perché capendo bene il fenomeno migratorio, capendo bene le cause che portano le persone fuori dal loro paese, riuscendo a capire il sistema in cui viviamo, che è un sistema globale, cercando di capire anche le relazioni con gli altri paesi, molto probabilmente sposterebbe anche l'asse e l'approccio verso il fenomeno migratorio. Però dal punto di vista della legge, lei sa che formalmente sono immigrati clandestini. A questo proposito le chiedo, secondo lei il reato di clandestinità andrebbe abolito? Ma io ritorno un attimo sulla prima domanda, cioè, perché non c'è nessuna affermazione che le persone, in questo momento io parlerei di mobilità, la mobilità delle persone, quindi le migrazioni sono un fenomeno. Ora, accertare che una persona sia clandestina, sia un rifugiato, sia quant'altro, lo si accerta dopo aver verificato anche i fatti, ma non a priori mettendo tutti nella stessa categoria. Questo e sì. Per quello che dico, comincia da una buona comunicazione comunque anche le politiche, iniziano proprio da qui. Il reato di clandestinità, io semplicemente posto un fatto e credo che in qualità di amministratore, in qualità di amministratrice, come chiunque, anche chi amministra i nostri comuni, chi amministra le nostre province, io sono stata un'amministratrice, per cui a un certo punto bisogna fare anche bisogna fare una valutazione, bisogna cercare di capire, analizzare. Il reato di clandestinità si pone all'attenzione, una riflessione. Qual è la sua utilità fino adesso, quanto si è stato speso, costo-beneficio per il paese, ecco, si deve fare un'analisi del genere e quindi allora si può parlare. E quindi lei dice se questi costi-benefici non ci sono e se non porta dell'efficacia andrebbe tolto per mancanza di efficacia, diciamo. Ma io credo che l'amministrazione deve fare una valutazione anche in questo senso, indipendentemente dalle ideologie. E la questione invece dei centri immigrazione di identificazione ed espulsione, so che in precedenti interviste lei ha detto andrebbero chiusi, è questa la sua posizione molto rigorosa? E se è così, perché? Ma i centri di identificazione ed espulsione, prima di tutto, non è una politica che compete esclusivamente all'Italia, è un tema che ho seguito in passato prima di diventare deputata, ho seguito in passato quando sono diventata deputata e sicuramente dovrebbe essere posta l'attenzione. Voi sapete che questo tema è di competenza del Ministero degli Interni insieme anche con il Ministero della Giustizia, quindi è un tema che va affrontato nella sua complessità, ma considerando quelle che sono le politiche europee, perché i centri non nascono dall'Italia, piuttosto direi che dall'Italia bisogna in questo momento anche rivedere all'interno del centro quali sono i diritti delle persone, come vengono trattate le persone all'interno, come è stata recepita la direttiva europea in Italia, che parla di 18 mesi per veramente per un estremo razio, quindi bisogna vedere tutti questi punti, ma una politica sicuramente da affrontare a livello europeo e non italiano. Facciamo così, Ministra, abbiamo le informazioni sul traffico, tra un minuto siamo ancora da lei, Ministra Cécile Kyenge, per concludere fino alle 8.55 e 24 mattino. Eccoci qui alle 8.47 minuti. Allora siamo con la Ministra per l'integrazione e le politiche giovanili Cécile Kyenge, alla quale chiedo, Ministra, lei è accusata di avere una politica che è un po' la politica della sinistra, troppo buonista su questi temi. Lei cosa replica? Ma il punto non è di fare una politica buonista, il punto è quella di un approccio che C'è però ministra mi scusi, c'è il cellulare che va e viene in questo momento come linea telefonica, vediamo se mi sente meglio adesso. Sì, no, lei mi sente bene, ma noi purtroppo come linea telefonica la sentiamo un pochino disturbata, sono gli imprevisti della diretta, vediamo se riusciamo a ripristinare un attimo la linea in 30 secondi, perché altrimenti il tempo qua come al solito fugge in una velocità assolutamente inafferrabile. Che dobbiamo? Guardo la regia, c'è in questo momento, stiamo provando a recuperarla. Allora siamo con la Ministra dell'Integrazione e alle politiche giovanili Cécile Kyenge, che ci ha spiegato qualcosa sui dibattiti della cittadinanza, sullo ius soli temperato, che è la politica che sta cercando di portare avanti come Ministra. Ovviamente di questo si dovrà discutere, sulla questione dell'immigrazione, ecco, sulla questione invece del buonismo della politica di sinistra ci stava rispondendo. Vediamo se riusciamo a ripristinare in questo momento la linea con la Ministra. Eccola qua, Ministra, ci sente ancora? Ci sentiamo meglio adesso, pronto? Mi sente, ministra Kyenge? Eccoci per... oggi vanno così un po' le linee telefoniche. Mi sente? Niente. Che dobbiamo fare, ragazzi? Andiamo in vacanza un paio di settimane in anticipo a questo punto. Potremmo farla come soluzione estemporanea. Assolutamente. Allora, ci sono dei messaggi che arrivano. Ci chiedono, chi ci dice che in realtà le regole vanno più che bene sulla questione della cittadinanza, chi dice che non vanno cambiate, non vanno accelerate. Chi ci dice, come Ivan da Bergamo, che in realtà nessun invito è stato rivolto al sindaco di Bergamo e per questo il ministro, la ministra è andata a una festa del PD invitata da un'associazione, quindi è normale che il sindaco di Bergamo ieri non fosse presente alla cerimonia. Chi dice la classica frase, cioè sempre gli ospiti vicino a casa sua, dia direttamente loro una stanza a tutti gli immigrati che arrivano. La legge uguale per tutti, per voi sembra di no, per voi non si capisce a che cosa si riferisca, visto che sta parlando con la ministra della Repubblica Italiana di cittadinanza italiana. Ministra, abbiamo recuperata? Sì, ci siamo. Ecco, la linea ci siamo. Si diceva una politica buonista, questa è l'accusa. A cosa risponde lei? Dipende sempre dalla definizione che si vuole dare a buonista, perché io ritengo che ogni politica deve essere fatta con una base che è quella dei diritti umani. Diritti umani, dove l'Italia ha sottoscritto una convenzione che si chiama la Convenzione di Ginevra, vuol dire mettere al centro la persona, vuol dire applicare la nostra Costituzione, vuol dire stabilire insieme alle persone diritti e doveri, regole e principi, che devono essere fatti insieme, e quindi è una politica che non deve essere a senso unico ma a doppio senso. Mi tolgo una curiosità, ma lei un caffè con Mario Borghezio lo berrebbe? Ma non vedo nessun problema, perché credo che in quanto persona, in quanto qualcuno che chiede un appuntamento con un ministro, non vedo nessun problema. Io in questo momento rappresento tutti i cittadini, non solo i migranti, ma tutti, per cui anche quelli che me la pensano diversamente da me. Mi faccia fare due domande sulla questione politica. Sa che ogni giorno si parla di un governo appeso al filo. Lei sinceramente sente una solidità del governo per vicende politiche che riguardano anche la celebre sentenza che ci sarà il 30 luglio, guardate Silvio Berlusconi, cioè lei è ottimista che in autunno avremo ancora questo governo Letta? In questo momento sì, penso che ogni partito attraverso un periodo delicato e i suoi problemi, quindi massimo rispetto per le difficoltà e insomma i problemi che possono attraversare questo partito al governo come fuori. In questo momento, finché non ci sono minacce evidenti, io non ho nessun motivo per pensare a una fine di governo. Quindi non ha nessun motivo di dubitare di questo. L'ultima domanda che le voglio fare è questa, ministra Kyenge. Sa che molti italiani, alcuni italiani, è una questione diffusa, pensano che la sua scelta di farla ministra sia stata anche una scelta cosiddetta politically correct, cioè perché lei è una ministra nera, come ha detto e ama definirsi e farsi chiamare lei. Lei cosa risponde a questo? Ognuno di noi ha un percorso, ha un disegno nella vita, bisogna vedere come uno lo porta avanti. Qualunque motivazione, qualunque percorso sia le possibilità che ci portano in una strada, bisogna vedere quella che una persona riesce a portare, quella che una persona riesce a dimostrare attraverso capacità, professionalità per realizzare l'obiettivo. In questo momento ritengo che il Premier Letta sia stato lungimirante nel fare questa scelta, perché ha dimostrato l'integrazione in Italia che si dimostra con i fatti, non soltanto sulle carte. Sì. Va bene, io intanto la ringrazio, purtroppo le ultime parole insomma sono state colte a metà, ma la ringrazio per essere stata con noi, ministra Cécile Kyenge, ministra dell'integrazione delle politiche giovanili. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it, questo ovviamente come sito internet. Che dire, ci fermiamo per questa settimana di 24 mattino, ma saremo ancora qui con 24 mattino a partire da lunedì e per altre due settimane a partire dalle 6:30. qualche coordinata per scriverci una mail, 24mattino@radio24.it. ci trovate così su Facebook, ci trovate così su Twitter. Io sono anche su Twitter, Alino Milan, questo è il mio profilo. Che dire, saluto Alessandro Longoni in redazione, Laura Faggin anche in redazione, e il nostro alpino Peter Bescapè che sta in regia. Anzi no, se ne va in ferie. Ma come ti permetti? Nemico del popolo, in ferie. L'alpino se ne va in ferie. Dove andrà? So, al mare? Alle Maldive? Al billionaire? Vabbè, vai in montagna, dai. Buone vacanze, alpino! Noi ci troviamo lunedì alle 7.30. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.